un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi affrontiamo un tema di grande attualità, è quello che riguarda il gruppo Fiat. Che cosa sarà di questo gruppo, di questo grande gruppo industriale italiano? Resterà un gruppo italiano? Ci saranno ancora le Fiat? Che fine farà l'alleanza con Chrysler? E che fine faranno gli impianti della Fiat in Italia? Sono tutte domande che hanno naturalmente ricadute molto importanti anche sulla vita di migliaia e migliaia di lavoratori. E allora, per rispondere a queste domande, vi segnalo il libro di Giuseppe Berta, Fiat Chrysler e la deriva dell'Italia industriale, pubblicato dal Mulino, 142 pagine, 14 euro. Berta affronta quella che è stata la grande svolta nel panorama industriale del nostro paese, una svolta che si manifesta alla fine degli anni Ottanta, quando, scrive, le imprese italiane che erano apparse capaci di aprirsi ai mercati internazionali ripiegavano dentro i confini nazionali, dismettendo i propri piani di espansione più ambiziosi, tramontati per sempre. Come spiegare questa brusca inversione di tendenza? Si chiede appunto Berta. E al centro di questo cambiamento c'è proprio la Fiat. Già il gruppo aveva considerato l'ipotesi di una partnership con un altro famoso marchio internazionale, Ford, e scrive Berta, forse un bene che quella opportunità non venne colta. Comunque la scelta allora fu di puntare sull'Italia. Nel frattempo, in quegli stessi anni, naufragavano altre alleanze importanti, per esempio quella di Olivetti con AT&T, anche, scrive sempre Berta, per un'incertezza strategica di fondo che l'azienda, che allora era guidata da Carlo De Benedetti, non avrebbe poi più superato. Ma altri casi riguardarono altrettanti gruppi come Pirelli, Montedison e diversi altri. Insomma, i grandi capitalisti rafforzarono in quegli anni quello che Berta denuncia come un capitalismo insieme oligarchico e collusivo che moltiplicava i legami e le reti di solidarietà opaca, grazie a cui i suoi principali esponenti potevano salvaguardare al contempo i loro interessi e il loro ruolo pubblico. Un capitalismo dunque niente affatto, conclude, dinamico e imprenditoriale, ma teso piuttosto a difendere le proprie rendite di posizioni. Dopo questa premessa si viene alla Fiat nel libro e si esaminano le ragioni e le prospettive dell'alleanza con Chrysler, il problema delle trasformazioni alla luce del quadro completamente cambiato, soprattutto del quadro sindacale negli Stati Uniti, le conseguenze della globalizzazione sul tessuto industriale, sul tessuto delle imprese automobilistiche e la trasformazione anche sugli assetti di potere interno, per esempio quelli relativi a Confindustria, che le scelte della Fiat potranno avere. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Giuseppe Berta. Professor Berta, lei sottolinea nel libro il ruolo che Marchionne ha avuto nella proiezione internazionale della Fiat e a un certo punto aggiunge, cito dal suo libro, che a tutt'oggi non si può sapere ancora quale sarà l'esito finale di questo sforzo, quello di Marchionne, che mira a convertire due debolezze in una forza, e poi lei analizza le varie ipotesi. Ma insomma, lei scommetterebbe su una soluzione in questi scenari plurimi ed eventualmente quale scenario? Ecco, appunto, sta cambiando lo scenario. La cosa che mi colpisce nella carriera, nel percorso manageriale di Sergio Marchionne, è il cambiamento dello scenario e, in relazione a ciò, l'aggiustamento incessante degli obiettivi. Abbiamo avuto tre fasi. La prima fase di Marchionne, che va dal suo arrivo a Torino al 2007, il momento più felice della sua fase italiana, diciamo così, col lancio delle 500. Poi abbiamo avuto una seconda fase che inizia dal 2000, fine 2008 e giunge fino all'anno scorso con la conquista della supremazia azionaria dentro la Chrysler, e abbiamo da pochi giorni, direi dal weekend della settimana scorsa, l'inizio di una nuova fase ancora dei contorni ignoti. Marchionne ha corretto, ha cambiato il suo progetto. Oggi, certo, lo scenario è sempre quello di una fusione, di un merger tra Fiat e Chrysler, e per di più a tappe accelerate, a quanto ci è dato di comprendere, ma c'è una novità importante. La novità importante è costituita dalla necessità che Marchionne ha teorizzato a Detroit di un consolidamento, questa è l'espressione che ha usato, dell'industria automobilistica europea. Marchionne insomma dice: c'è un 10-20% in più di capacità produttiva inutilizzata che va tagliata. Come si può ottenere questo risultato e razionalizzare la produzione rendendola più conveniente sotto il profilo economico? Si può ottenere tutto questo con delle alleanze. Dunque abbiamo capito che la nuova fase non è più solo Fiat Chrysler, ma è Fiat Chrysler con un nuovo alleato. I giornali hanno incominciato a parlare in questo senso di PSA, di Peugeot. Vedremo se sarà così. Ecco, e qual è stato l'effetto di Marchionne nel sistema Fiat, nel corpaccione di questa azienda molto tradizionale, molto anche padronale in un certo senso? Certo, allora Marchionne giunge nel 2004, quando la Fiat è al suo punto più difficile, no? Quando si parla anche di nazionalizzazione della Fiat, cioè è stato addirittura che attribuiva al ministro dell'economia dell'ora, a Tremonti, questa intenzione. Però le cose sono andate diversamente, perché Marchionne ha condotto per 2 o 3 anni un efficace risanamento della Fiat. Però ecco, qui bisogna intendersi, risanamento parziale. Cioè Marchionne non ha mai detto che nel lungo periodo la Fiat poteva stare in piedi da sola. La Fiat è una casa automobilistica generalista, vuol dire che produce un po' di tutto, vetture soprattutto piccole, ma anche medie e medio grandi. Allora, ha un volume di prodotto e di vendite insufficiente per questo profilo d'impresa. Di qui la necessità di cercare volumi più grandi e di qui la necessità di un'alleanza internazionale. Dunque, se è vero che per un verso Marchionne ha sciolto la precedente alleanza Fiat e General Motors, ne ha però subito, appena ne ha avuto l'opportunità, impostata un'altra in cui però è l'azionista Fiat, almeno fino a questo momento, a essere dominante, tant'è che il controllo di Chrysler è oggi per il 58% nelle mani di Torino. Un intero capitolo del suo libro è dedicato al sindacato americano. Ecco, l'esperienza americana che cosa può insegnare agli italiani? Secondo me può insegnare molto. Può insegnare molto perché il sindacato nella globalizzazione è più debole. È più debole da ogni punto di vista. E se ha questa debolezza specifica, che dipende dal contesto internazionale in cui opera l'impresa, aggiungiamo le specificità locali, per esempio italiane, vediamo come le difficoltà aumentino ancora. Mi spiego meglio, un sindacato diviso, un sindacato lacerato, un sindacato che si scontra quasi più duramente tra le sue varie anime interne che non con l'azienda, beh, è un sindacato soccombente di fronte alla globalizzazione. Ecco perché, se noi prendiamo il modello del sindacato americano, che ha accettato appunto grandi resistenze di partecipare al capitale di Chrysler, o se prendiamo meglio ancora il modello del sindacato tedesco, che di fatto è una sorta di istituzione della politica aziendale, alla Volkswagen come alla Daimler, bene, abbiamo la prova che il sindacato deve essere unitario, un sindacato unito è un sindacato che è fortemente radicato nell'azienda e che dialoga e discute con l'azienda, ma ne condivide, come dire, la forma, l'assetto, è un sindacato più forte. Un sindacato come quello italiano, che come dicevo prima è continuamente contrastato dalle lacerazioni interne, è un sindacato che, presentandosi debole, è certamente destinato ad avere minore influenza sulla politica e sulle scelte strategiche dell'azienda. Lei si fa alla fine del libro un interrogativo sulla sopravvivenza del sistema industriale, del sistema produttivo del nostro paese. Scrive che dalla crisi del 2008 in poi il vertice della Fiat ha sollecitato a più riprese con insistenza una risposta sull'intenzione di preservare o meno i capisaldi dell'Italia industriale. Lo ha fatto in maniera irrituale, polemica non di rado irritante. Ecco, secondo lei è stato efficace questo richiamo della Fiat? È vero, come dicono alcuni, che Marchionne è l'unico vero riformatore del nostro paese? Mi sembra questa un'affermazione eccessiva. Marchionne è un abilissimo negoziatore che sa giocare contemporaneamente su tanti tavoli. Dice di non volere, di non cercare aiuti statali, ma là dove li ottiene è pronto a sfruttarli, come è successo in grande negli Stati Uniti e più in piccolo in paesi come la Serbia, dove i costi di insediamento gli sono stati di fatto annullati. Nel medesimo tempo, mostrando questa autonomia, rivela anche che la sua disponibilità a prendere in considerazione tutte le soluzioni sulla scacchiera mondiale. In questo senso ha disabituato l'interlocutore ai comportamenti classici della Fiat. La Fiat, che come ricordava l'avvocato Agnelli, nel suo acronimo ha tante parole impegnative, fabbrica italiana automobili Torino, nessuna impresa ha così tanti riferimenti concreti e spaziali di settore dentro la propria sigla. Dicevo, l'avvocato Agnelli non pensava mai e mai più che si potesse scindere il destino della Fiat dal destino dell'Italia. Invece Marchionne lo dice apertamente, il suo scopo è di costruire un'impresa globale. Io direi che se vogliamo trovare un merito nelle politiche e nelle parole di questo manager così singolare e atipico, sta nel fatto che con brutalità, come ho già scritto, ha messo un po' di fronte all'Italia i nodi della globalizzazione, naturalmente senza fare molte concessioni e a volte anche avallando l'ipotesi che le sue parole servano a Fiat Chrysler per accelerare il distacco dall'Italia. Ma anche se così fosse, c'è un elemento in queste affermazioni con cui bisogna fare i conti, che il nostro paese non si è finora misurato con la scala della globalizzazione delle grandi imprese e deve dire se è un terreno su cui vuole confrontarsi o seppure bisogna guardare altrove, cioè dobbiamo puntare su un diverso tipo di industrializzazione, quello delle medie imprese, del quarto capitalismo, delle multinazionali di nicchia e via dicendo. Anche questo può essere una scelta, naturalmente. Grazie a Giuseppe Berta, autore di Fiat Chrysler e la deriva dell'Italia industriale. Buona domenica. Ho accennato prima Olivetti, vi segnalo una biografia a fumetti, una graphic novel di Marco Peroni e Riccardo Cecchetti, che è autore quest'ultimo delle illustrazioni, si intitola Adriano Olivetti, un secolo troppo presto, è pubblicato da Becco Giallo, 158 pagine, 19 euro. Queste sono alcune note dello spettacolo con musiche di Bob Dylan di Marco Peroni, Mario Congiu e Mau, che si è ispirato proprio a questa storia, a questo fumetto. E il libro è molto suggestivo perché ripropone l'inconsueto stile imprenditoriale di Olivetti, anticipatore, forse un po' sognatore. Come nota nell'introduzione, un nipote di Olivetti, Beniamino De Liguori Carino, ad Adriano Olivetti si attribuisce spesso un ruolo profetico per aver cercato soluzioni efficaci attraverso solide proposte, a volte anche realizzate, di riforma della società, della politica, del mondo produttivo. Ma fino a oggi, aggiunge, nessuno aveva mai proiettato nel futuro questo sentimento di comprensione e identità con le domande che Adriano Olivetti, dalla sua privilegiata posizione operativa, si poneva. Si parla del futuro perché questo libro assume l'espediente di presentarsi come una tesi di laurea su Olivetti scritta nel 2060, una tesi che appunto ripercorre la carriera del grande imprenditore e le sue incursioni che facevano parte del suo programma complessivo nel campo della cultura e della politica. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di storie. Partiamo con un libro affascinante scritto da uno storico inglese che è anche un drammaturgo, Alex Butterworth. Si intitola Il mondo che non fu mai, una storia vera di sognatori, cospiratori, anarchici e agenti segreti, pubblicato da Einaudi, 526 pagine, 34 euro, ed è tradotto da Mario Marchetti. Prima di presentarvelo sentite queste righe. Vergognose disparità nel tenore di vita tra ricchi e poveri erano acutamente evidenti. A quei tempi, lo sfruttamento industriale della manodopera e l'avidità dei pochi producevano ingiustizia sociale e instabilità economica, e d'altro canto, la riluttanza dei politici ad affrontare il pernicioso potere finanziario e societario induceva alla disillusione, anche all'interno di quelle che passavano per democrazie. Il tutto sullo sfondo di sistemi economici in perenne ondeggiamento tra crisi e crisi, incapaci di imbrigliare un capitalismo rampante e selvaggio. La religione costituita, screditata dalla scienza, non riusciva a far fronte alla propria perdita di autorità, mentre c'era chi individuava la maggior minaccia spirituale nella cultura consumistica e nell'invadenza della pubblicità. L'immigrazione di massa metteva alla prova la capacità di adattamento delle culture nazionali e creava un forte internazionalismo frutto di fecondi interscambi. Nel frattempo, in un mondo multipolare foggiato dalla geopolitica di grande potenza, mutamenti negli equilibri e nei dinamismi economici minacciavano la pace, con alleanze faticosamente stipulate nella speranza di evitare o di ritardare la deriva verso il precipizio. Avrete pensato che questa sia una descrizione dei nostri giorni, invece no, si parla dell'Europa della Belle Époque, che come avrete sentito era tutt'altra che bella e aveva gli stessi problemi con i quali ci misuriamo noi oggi. L'autore, per la verità, è il primo a invitare a non fare paralleli magari tra le crociate antiterrorismo alle quali siamo abituati oggi è quella che fu lanciata contro gli anarchici in quell'epoca e vuole esplorare piuttosto il periodo tra il 1870 e il 1914 per cercare di capire quali forze si agitassero in un mondo torbido, lo chiama, fatto di rivoluzionari e di regimi decisi naturalmente a utilizzare ogni mezzo pur di combattere gli anarchici e i nemici dell'ordine costituito. Così si dedica anche a loro a politiche che avrebbero mantenuto la loro attualità, quella per esempio di intorbidare le acque piuttosto di manipolare l'opinione pubblica. Perciò, scrive Butterworth nel suo libro, il mio obiettivo è semplicemente quello di smontare i complessi intrighi e raggiri messi in atto da tutte le parti in gioco nel tentativo di discernere i fattori che confluirono nella prima guerra al terrore di portata internazionale e le conseguenze che ne scaturirono. L'inchiesta è difficile anche perché le fonti sono ancora spesso inaccessibili. Lui stesso, per esempio, confessa di aver avuto difficoltà quasi insormontabili a Londra con la sezione speciale della Metropolitan Police, che gli ha messo appunto i bastoni tra le ruote. Tre sono i centri principali del viaggio tra anarchici, poliziotti e servizi segreti che l'autore conduce: Londra, Parigi e Pietroburgo, lungo un periodo appunto segnato dal crollo dell'impero di Napoleone III e poi dalla Comune di Parigi fino alla Prima Guerra Mondiale. Naturalmente, conclude l'autore, chi ci andò di mezzo furono proprio gli anarchici. Quando alla fine arrivarono le rivoluzioni, scrive infatti alla fine del suo libro, in una forma o nell'altra non furono gli anarchici, maltrattati, demonizzati e assai cauti, a prendere il potere. La maggioranza degli anarchici pensa e scrive sul futuro senza capire il presente, scriveva Lenin nel 1918. È questo che divide noi comunisti da loro. E Butterworth ricorda un giudizio molto analogo sugli anarchici anche di Mussolini, che pure aveva avuto simpatia in gioventù per quel movimento. E gli anarchici, ma quelli italiani, ritroviamo nel libro di un celebre scrittore italiano, Manlio Cancogni, si intitola Gli angeli neri, storia degli anarchici italiani da Pisacane ai circoli di Carrara, e pubblicato da Mursi a 144 pagine, 14 euro. Questo è un libro nato originariamente da un confronto con Indro Montanelli. Cancogni è molto legato all'area della Versilia di Carrara, dove è molto consolidata la tradizione anarchica. Una tradizione che, secondo lo scrittore, affonda le sue radici in Carlo Pisacane. E proprio da Pisacane si parte in una serie di brevi capitoli e ritratti che si concludono appunto nel dopoguerra con un giudizio finale agrodolce sugli anarchici. Cancogni infatti considera fallito il disegno degli anarchici per la loro stessa debolezza culturale, come spiega nelle righe che adesso vi propongo. Spesso hanno apparentato gli anarchici alle sette ereticali del Medioevo. Non credo che in proposito si possa esprimere un giudizio definitivo. Ma come evitare, se pensiamo ad alcuni grandi leader dell'anarchismo, i più puri, di rievocare le figure degli apostoli del cristianesimo primitivo? Cristiani senza Iddio, è vero, e senza paradiso. Ma non sarà forse per questo orgoglio, per questo insistere sull'io? Se c'è Dio, io non sono libero. Per questa superbia celata nel loro evangelismo, avvolto di filosofia positivista, che gli anarchici sono circondati da una specie di gelo che li isola proprio dal popolo a cui si appellano. Un fatto è certo: l'Italia, che vide la nascita dell'anarchismo, era quasi unanime, pur con diverse motivazioni, nel rifiuto dello Stato piemontese. Eppure gli anarchici non seppero mai raccogliere e organizzare quella protesta. Nonostante le profferte sincere di amore, erano destinati a restare soli, innamorati di se stessi. Nonostante errori e fallimenti, Cancogni tuttavia sottolinea come bisogna riconoscere agli anarchici un merito, quello di porre l'attenzione sulla questione dello Stato e sul tema del rapporto tra libertà e autorità, un tema che è sempre bisognoso di essere aggiornato e messo a registro anche ai nostri giorni. Dopo gli anarchici parliamo di uno dei simboli che gli anarchici odiavano, cioè l'esercito, gli uomini d'armi, e ne parliamo con il libro di Arrigo Petacco, Quelli che dissero no, 8 settembre 1943, la scelta degli italiani nei campi di prigionia inglesi e americani, pubblicato da Mondadori, 172 pagine, 19 euro. All'annuncio dell'armistizio della Seconda Guerra Mondiale, l'8 settembre del 1943, erano circa 600.000 soldati italiani prigionieri degli alleati, altri 100.000 erano prigionieri nei gulag sovietici. E dopo l'armistizio altri 600.000 soldati sarebbero stati presi prigionieri dai tedeschi. Molti dei primi 600.000, quelli appunto reclusi dagli inglesi e dagli americani, indipendentemente dalle inclinazioni politiche, non accettarono dopo l'armistizio di cooperare contro il nemico che nel frattempo era divenuto alleato. e mantennero quindi lo status di prigioniero di guerra. Quelli che venivano chiamati i cooperatori, tra l'altro, non furono affatto rimpatriati come si speravano e come del resto era stato loro promesso, ma anzi in certi casi vennero trasformati in sorveglianti di quelli che appunto non volevano cooperare, di chi era rimasto prigioniero di guerra, alimentando quindi anche un clima di divisione all'interno delle fila degli italiani. E a questo punto il confettino. Rimaniamo in ambito storico con il libro Vite da favola, storie vere di sovrani e condottieri, il libro di Carmela Torelli illustrato da Angelo Ruta. Da Giulio Cesare a Maria José troviamo qui una serie di ritratti raccontati alla figlia dell'autrice, che ha 6 anni e che si è stancata di sentire storie di fate e principesse inventate. Chiede alla mamma di sentire dei racconti veri con protagonisti autentici, che siano appunto re, regine, principe e principesse, e la mamma l'accontenta con questa serie appunto di sovrani e condottieri. E a questo punto ringrazio Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.